verse is said to be the Buddha's own exclamation upon achieving liberation. Quindi questo il verso di cosiddetto di vittoria sono proprio le parole del Buddha che il Buddha ha pronunciato dopo aver raggiunto la liberazione. Do you want to read it in Italian? Cercando, ma non trovando. Buddha's victory verse, can you read it? Yes. Allora, cercando ma non trovando il costruttore della casa, ho viaggiato attraverso i cicli di incontabili nascite. Quanto dolorose sono le nascite che si ripetono incessantemente. Oh costruttore di case, ora sei stato preso. Tu non costruirai di nuovo una casa. I tuoi travetti sono stati rotti. La tua trave maestra è stata demolita. La coscienza incondizionata è stata realizzata e ogni tipo di brama è stato distrutto. For the benefit of our Irish immigrants, having searched but not found the builder of this house, I've travelled uncountable rebirths. How painful are these rebirths, which repeat themselves incessantly. O builder of this house, now I have caught you, I have seen you. You will not construct another house for me. The roof things. Rafters. Your rafters have been broken and your ridgepole has been completely demolished. Now, you'll see in the Pali, the last line, Visankaragatan Chittan. Okay, now Chitta here means the mind, but it actually means consciousness. Because he says it's Visankara Gatam. In other words, no longer conditioned. Okay? And one of the definitions of Nibbana is it's not conditioned. Okay? This is one of those points in the canon where the Buddha is actually stating very positively and clearly what the experience is. His preferred, his preferred way of doing it is in the negative. And this is something negative. No, he's saying it's a chittam, you see. Oh. It's an actual consciousness. Oh, okay. Quindi sta commentando quest'ultima frase in Pali quando dice Visankaragatam Chittam. Allora qui Chittam significa mente, ma in questo contesto è la coscienza, e Visankaragatam significa che non è condizionata, quindi la coscienza non è più condizionata, e questo è uno dei rari casi all'interno del canone quando il Buddha esprime chiaramente qual è l'esperienza del Nibbana. E lo esprime in senso positivo. So the negative, his preferred negative way is to say things like the not born, not dying, not conditioned, and so on. Perché il suo modo invece preferito per esprimere il Nibbana è appunto di dire il non nato, il non creato, il non condizionato, eccetera. And it's because this has been stressed that you'll find in certain literature that therefore there is no consciousness in Nibbana. Ed è proprio perché questo è stato così sottolineato che viene spiegato, viene detto in varie circostanze che non c'è coscienza nel Nibbana. In order to get a perspective of this, we have to remember that he was 35 when he became liberated, and he lived for 45 years as an ordinary human being. Quindi per mettere tutto questo in una, nella giusta prospettiva bisogna considerare che aveva 35 anni quando ha avuto questa esperienza di liberazione e poi ha vissuto per un altro 45 anni, per altri 45 anni come un essere umano ordinario. So, if we look at the Paticca Samuppada, so this is what we chant in the morning. Quindi adesso andiamo al Paticca Samuppada, che è quello che cantiamo, recitiamo al mattino. So here the Buddha is describing the process of how we create the world. Allora qui il Buddha sta descrivendo il processo attraverso il quale noi creiamo il mondo. Now he begins with this word avijja. Allora inizia con questa parola avijja. Avijja just means not knowing, no knowledge. Significa non sapere, non conoscere, la non conoscenza. This not knowing you'll see sometimes translated as delusion. A volte questo non conoscere a volte è tradotto come illusione. But actually that's a second step. Ma quello però è un passaggio successivo. The second step actually produces the sankhara. Ed è questo secondo passo che effettivamente produce i sankhara. The sankhara themselves are delusory. Perché i sankhara stessi sono illusori. Ah, it's not translated. No. Okay. Mm-hmm. So we have to translate it as we go along there. Mm-hmm. Sono accorta che non è tradotto Paticca Samuppada. Lo tradurremo man mano che andiamo avanti. Sankharas are the conditionings in us that have been produced by the will. Allora, i sankhara sono i condizionamenti che sono dentro di noi e che sono stati condizionati dalla volontà. So, they are our mental states. E sono i nostri stati mentali. Which includes both the emotions and the thought patterns. E questo comprende sia le emozioni che gli schemi di pensiero. These are your sankharas. Quindi questi sono i sankhara. So, the word kara there just means an action. Quindi qui kara significa semplicemente un'azione. The next step is that dependent on these sankharas that arise consciousness. Dependent on them, consciousness arises. Quindi il passo successivo, la parola successiva, dice che sul condizionati da questi sankhara sorge la coscienza. So, it's not that it's just sankharas that make consciousness arise, but consciousness won't arise unless there are sankharas. Quindi questo non vuol dire che che sono solo i sankhara a far sorgere la coscienza. Significa piuttosto che se non ci sono i sankhara, la coscienza non sorgerà. So, for instance, if when anger arises in us, or happiness, consciousness arises of that particular state. That's all. Quindi, per esempio, se c'è rabbia o felicità dentro di noi, allora, condizionata da questa rabbia o felicità, sorgerà la coscienza che è collegata con quel particolare stato. And we can, by displacing our attention, which is another word for consciousness, we can become unaware of a particular mental state. E quindi semplicemente spostando la nostra attenzione, che è un'altra parola per coscienza, noi possiamo semplicemente essere consapevoli di un altro stato. So I might feel a little bit depressed. Magari mi sento un po' depresso. So I'm aware of that. E ne sono consapevole. But then a friend comes along and suddenly I'm in a different state. I'm happy. Poi arriva un amico e improvvisamente io sono in un altro stato. Sono felice. So this other mental state, the depression, is not destroyed. It's simply disappears underneath. Quindi questo stato di depressione non è che viene distrutto o che sparisce, semplicemente viene nascosto ad un livello più basso e viene nascosto dalla felicità, cioè dallo stato che è subentrato. So here we've got, because of ignorance in the first place, there arises afterwards a delusion. Quindi qui abbiamo che a causa di questa ignoranza iniziale dopo nasce l'illusione. So the one is prior to the other. Quindi una viene prima dell'altra. But here we've got conditioning and consciousness of conditioning arising at the same time. Ma qui abbiamo il condizionamento e la coscienza del condizionamento che sorgono contemporaneamente. So we will see this throughout this process, that there are things that are coming after something and there are things that arise contingent at the same time as something. Quindi qui vedremo in questo processo che ci sono delle cose che nascono in conseguenza ad altre e delle cose che sorgono contemporaneamente in maniera contingente ad altre. So with these sankharas and this consciousness, the next two or three steps come up at the same time. Quindi con questi sankhara e la coscienza, gli altri due o tre passaggi sorgono allo stesso tempo. So there is first of all the body and mind. Allora, innanzitutto c'è il corpo e la mente, nama rupa. Now remember that during this week I've been trying to make you make that distinction between the body and the mind. Quindi ricordate che in tutta la settimana io ho cercato di fare in modo che voi riusciste a fare questa distinzione tra il corpo e la mente. So there's tasting on the tongue and there arises pleasantness in the heart. Allora c'è il gusto sulla lingua e sorge il piacere nel corpo, nel cuore. See, there's an intention in the mind and the hand moves. C'è un'intenzione nella mente e si muove la mano. So something mental has turned into a physical action. Quindi qualcosa di mentale si è trasformato in un'azione fisica. We feel a little bit depressed and the body feels heavy. Noi ci sentiamo un po' depressi e il corpo si sente appesantito. Okay, so in the Buddha's understanding these are two separate energy systems. Quindi secondo quello che ha compreso il Buddha, questi sono due sistemi energetici diversi. You see? And the one arises dependent on the other. Quindi uno di questi sorge in dipendenza dall'altro. So if I have an angry thought, the body gets hot. Quindi se ho per esempio un pensiero di rabbia, il corpo diventa caldo. If I put something sweet on my mouth, my heart delights. Se mi metto qualcosa di dolce in bocca, il mio cuore è felice. See? So this is what this thing. Then this body and mind is now dissected into the six sense bases. Adesso questo insieme di mente e corpo viene sezionato nelle sei basi dei sensi. So there are the obvious five physical senses. Ci sono i cinque sensi fisici che sono quelli più ovvi. And the mind itself is a sense base. E la mente stessa è considerata una base dei sensi. Now what this means is that it's at this level that your primary perceptions come to you. E questo significa che è a questo livello che le vostre sensazioni primarie vi arrivano. So at the sense level all I'm seeing is color and shape. Quindi a livello sensoriale tutto quello che io vedo è fatto di colori e forme. So if I were to look now at this recording machine, my first impressions are just color and shape. Quindi se io guardo per esempio questo registratore, le mie prime impressioni sono semplicemente di colore e di forma. The sense base in the mind records that. E il mio senso nella mente, il mio organo di senso mentale, semplicemente registra quello che ho visto. Now, this becomes your first step of of a perception. Questo diventa il primo passo di una, della percezione. This immediately contacts my sankhara and other perceptions, my memory base. E questo contatta altri sankhara che sono nella mia base di memoria. And this puts onto this sense base a meaning. E questo attacca, come dire, aggancia a questa base dei sensi un significato. You know, this particular recording machine. Per esempio, questo è un registratore. This becomes my next perception. E questo diventa la mia percezione successiva. Then there comes understanding and thoughts about it, and each time that moves, this sense base moves with it. E quindi poi c'è la comprensione e il pensiero e tutte le volte questo grows with it. Questo cresce insieme alla percezione. And this is what I'm aware of. Ed è di questo che io sono consapevole. Okay? This is my act of cognition. Questo è il mio atto di cognizione. Yeah. It's to me it's very similar to a computer screen. Per me è molto simile al allo schermo di un computer. Ah, because what I see is a screen, but there's all sorts of information coming to the screen to create this picture. Quindi quello che io vedo è solo uno schermo, ma ci sono molte informazioni che arrivano sullo schermo e che creano un'immagine. Mm. So this is in a sense happening within my own mind. Quindi in un certo senso questo sta succedendo nella mia mente. And it's an interesting observation, I think, that when we look at machines, they are an extension of human strength. Strength. Quando, è interessante vedere che quando osserviamo una macchina, sono come un'estensione della forza umana. Ah, so instead of running, I jump in a car and make the wheels run. Quindi anziché correre io stesso salto in una macchina e faccio girare le ruote. When I want to dig something big, I create a machine that is just a big hand which scoops the earth out. Quando voglio scavare qualcosa, semplicemente utilizzo qualcosa di grande, utilizzo una macchina, una russa, che non è altro che una grossa mano che tira su la terra. And that now we're actually creating machines which copy the mind. E adesso stiamo addirittura creando delle macchine che copiano la mente. So I see no problem with creating an intelligent machine. Quindi non vedo nessun problema nel creare una macchina intelligente. Because what Buddha is saying is that this is also just a mechanism. Quello che ci sta dicendo il Buddha è che anche questo non è altro che un meccanismo. Ah, on the mental level, it's a mental energy which is creating these forms and images. Quindi a livello mentale è un processo mentale che crea queste forme e queste immagini. I should have said and concepts, you see. E anche concetti. So that's why I think it was a particular machine beat the chess champion. Ed è per questo che credo che ci fosse una particolare macchina, un computer che ha battuto il campione di scacchi. So here we have a paradox. We can create a machine that's cleverer than us. E quindi qui si crea un paradosso, cioè noi possiamo creare una macchina che è più intelligente di noi. Ah. But I think what we will find is that the problem of consciousness. Ma quello che potremmo trovare è questo problema della coscienza. Ah. This is something else. Questa è un'altra cosa. We'll see. Vedremo. So, here we have the body and mind, and dependent on those two systems we have the six sense bases. Quindi qui abbiamo il corpo e la mente, e sulla base di questi due sistemi abbiamo poi le sei basi dei sensi. Now, with that there comes the process of contact with the world. E quindi sulla base di questo poi, o condizionato da questo, abbiamo il contatto con il mondo. Not only the outer world, but the inner world, you see. Non solo quello esterno, ma anche quello interno. And there needs to be three conditions for there to arise this perception or this contact or this moment of cognition. E ci devono essere tre condizioni perché avvenga questo momento di contatto, questa cognizione. contact condition. There has to be an object, there has to be a sense base, and there has to be consciousness. Allora, ci deve essere un oggetto, ci deve essere una base dei sensi e ci deve essere una coscienza. Coscienza. So, if any of these three are missing, there's not a possibility of knowing. Quindi se uno di questi tre elementi manca, allora non c'è la possibilità di conoscere. So, take the eyes for instance. Per esempio, prendiamo gli occhi. If there's no light, you don't see, there's no object. Se non c'è luce, uno non può vedere, non c'è oggetto. If there's no eyes, you're not going to see either. E anche se non avete gli occhi, non riuscirete a vedere. And it's impossible to see while you're asleep. Ed è impossibile vedere quando siete addormentati. Or unconscious. Oppure quando siete incoscienti. Now, this is the Buddha's description of how we make contact, or how we come to know, primarily know, what the world outside and the world inside. E questo è come il Buddha spiega il fatto che noi entriamo in contatto o noi conosciamo sia il mondo esterno che quello interno. Now, the next point is crucial, because at this point we begin to live in a dual world. Quindi il momento successivo è cruciale, perché a questo punto cominciamo a vivere in un mondo duale. We begin to experience the world as either pleasant or unpleasant. Cominciamo a fare esperienza del mondo o come piacevole o come spiacevole. Even though there is a large area of neutral feelings, if we go to them and really perceive them, we find that they shade either into the pleasant or the unpleasant. Anche se c'è tutta una parte intermedia di sensazioni neutre, però se le guardiamo attentamente vediamo che possono andare nella direzione di quelle piacevoli o in quelle spiacevoli. Vuoi andare? Continui tu a tradurre. You're sitting up there like a bad boy. No. So, this is a really important point in the process of experience. Questo è un punto importante nel processo dell'esperienza. That is how we primarily experience the world we live in. E come noi sperimentiamo veramente il mondo in cui viviamo. It's either pleasant or unpleasant. È piacevole o spiacevole. So now here we're talking from a feeling, experiential point of view. E qui parliamo da un punto di vista di esperienza sensoriale. Always with Vedana, in the Buddhist psychology, there arises sanya, perception. E la percezione nella psicologia buddista sorge sempre con perception. Perception. Percezione. Always with feeling there arises perception. È sempre a causa della sensazione che sorge la percezione. They come together. Vengono insieme. In other words, the mind, the thinking mind, creates an inner image of the sensation. La mente in the inner crea un'immagine della percezione. An image, an internal image of the perception, of the feeling. La sensazione, la percezione della sensazione. So for instance, when we are watching the breath, you see, there are three things there. Per esempio, quando osserviamo il respiro, ci sono tre cose. First of all, there's the image in the mind of something rising and falling. Prima di tutto, c'è un'immagine nella mente di qualcosa che si alza e si abbassa. Secondly, there's an idea of movement. Secondo luogo, c'è l'idea di movimento. Now, this idea of movement means that the mind is somehow collecting time so that we remember it as a movement. Questa idea di movimento vuol dire che la mente raccoglie il tempo così che abbiamo l'idea del movimento. Mm. When we listen to music, music is the notes are coming at us at an amazing speed, but the mind can contain a certain length of time, which gives us the idea of continuity. E quando sentiamo la musica, le note escono a una velocità molto veloce, ma la mente... The mind contains a certain amount. Ne contiene una certa quantità. Che ci danno l'idea of continuity. Della continuità di questa musica. Clever, eh? Intelligente. Because actually, what's really happening are momentary sounds just hitting the ear. Quello che succede in realtà sono suoni momentanei che colpiscono l'orecchio. In fact, what's hitting the ear is not a sound at all, it's just pressure waves. Quello che colpisce l'orecchio in realtà non sono suoni ma sono onde di pressione. Mm. And actually in good meditation you may be able to experience that yourself, that all there is the sense of touch. E in verità se fate una buona meditazione dovreste essere in grado di sperimentare proprio quello che è una sensazione di contatto. Mm. Just touch. Now, all this is automatic and given. Tutto questo avviene automaticamente. It happens automatically. È qualcosa che avviene automaticamente, è già dato. Yeah, it's given. Of course, we can develop our perceptual basis. Noi naturalmente possiamo sviluppare la base della percezione. A musician has a keener ear, an artist a keener eye. Quindi un musicista ha un orecchio più raffinato e un artista una facoltà visiva più raffinata. Now it's the next bit which is causing us the problems. Il prossimo, il passo successivo che causa il problema. So dependent on perceiving things as pleasant or unpleasant, desire arises. Quindi in dipendenza del percepire le cose come piacevoli o spiacevoli che sorge il desiderio. Now you'll see this word tanha translated as craving. Questa parola tanha che è tradotta come Brahma. And this really is the difficulty, I think, of Western languages to distinguish between those desires which are wholesome, based on wisdom, and those desires which are unwholesome. Quindi qui ci sta la difficoltà della Western, della cultura occidentale, di distinguere tra quei desideri che sono salutari e quelli che non sono salutari. Mm, because the word tanha has a specific meaning. Perché la parola tanha ha un significato specifico. Mm, it's seeking happiness in the sensual world. Vuol dire cercare la felicità nel mondo sensoriale. Ah, you see? And this is the big mistake. E questo è un grande sbaglio. That we can leave to tomorrow, really. Why it is a big mistake. Why it is. We can leave that to tomorrow, why it possiamo is. Possiamo lasciarlo per domani, di cercare di spiegare o di capire perché è un grande sbaglio. Mm. What's important now is to really recognize the next step. Quello che è importante adesso è riconoscere veramente il passo successivo. Upadana means grasping. E questa parola in pali, upadana, che vuol dire attaccamento. Grasping. Grasping. Attaccamento. Sì. Ferrari. Ferrari. Yes, because you see, we now have to understand the science of those days. Perché adesso dobbiamo comprendere la scienza di quei giorni, i giorni del Buddha. Mm. One of the most constant images the Buddha uses is a fire. una delle immagini più costanti che veniva utilizzata dal Buddha era il fuoco. Now, what the ancients understood was that the element of fire was everywhere. Quello che era, diciamo, nella comprensione comune in passato è che l'elemento fuoco era dappertutto. Dappertutto. Even the Greeks understood that. Anche i greci avevano questa idea. Yeah. So these are your four basic, great elements. Quindi questi sono i quattro grandi elementi. So there's fire, water, air, and earth. It's the other way around. Earth, fire, water, and air. I think that's the way it goes. Terra, fuoco, acqua e aria. Now, this, you see, this is where we misunderstand the ancient mind. Ancient. Yeah. È qui che noi abbiamo una cattiva comprensione di quella che era la mente anziana, la mentalità degli antichi. Because what they are describing is how they, consciousness, experiences the world. Perché quello che descrivono loro è come la loro coscienza percepiva il mondo. Experience the world. Esperiva il mondo. In other words, their science is not objective. La loro scienza, cioè, non è oggettiva. So everywhere there was some heat or lack of it. Quindi dappertutto c'era heat del calore o una mancanza di calore. And this is true in our science too, eh? E questo è vero anche nella nostra scienza. I don't know what it is, but at minus 270 or something, matter is supposed to collapse, disappears. Non so dove è scritto, ma a meno 200. Minus 270 or something. 270 sembra che la materia si collassi. Collassi. So, I hope you don't mind this science lesson. Okay. I hope you don't mind this science lesson. It's a science lesson. So, what happened is, according to the ancient science, when you rubbed two sticks together, you created a condition whereby the fire element congregated around the wood. Quello che succede secondo la scienza antica è che quando si sfregano due legni uno contro l'altro, l'elemento fuoco viene raccolto, you say? Well, it collected around the wood, you say? Raccolto attorno al fuoco. When the wood disappeared, what happened to the heat? E quando scompare il legno, cosa succede del calore? The heat went back into its state of potential. Il calore torna indietro nel suo stato potenziale. Now this, the Buddha says, is exactly what happens to this self, this consciousness. E questo, secondo il Buddha, è esattamente quello che succede al sé, alla coscienza. The consciousness as self. The consciousness as. Come. Perché la coscienza ha il sé. Come il sé. Come. As, come se. So we translate that as identity. Noi traduciamo come identità. Identity. So there is anger. Quindi c'è rabbia. There is a desire to indulge the anger. C'è un desiderio di indulgere nella rabbia. Tanha. I am angry. Quindi, successiva, io sono arrabbiato. Identity. Identificazione. Sì? And then I hit the person on the nose. This is the next step, bhava, becoming. E questo è il passo successivo che è bhava, il divenire. Divenire. Bhava is the process of selfing. Constant becoming a self. Questo bhava è il processo del continuo divenire del sé, diventare un sé. Sayante. Sì, sì. How would you say selfing? Sayante. Selfing. So it's not an English word, selfing. So this is the same word as karma, an act. Questa è la stessa parola di kamma, azione. So kamma is the act. Quindi kamma è l'atto. Mm-hmm. And bhava is telling us that there must be a self that acts. E bhava ci dice che ci deve essere un sé che agisce. Mm. Now, once we have acted, once we have taken a potential into the actual, una volta che noi abbiamo agito, che cioè abbiamo trasformato una potenzialità in attualità, then the action must come to an end in some way. Quindi l'azione deve arrivare a una fine in qualche modo. So, birth, aging and death. E così abbiamo la nascita, l'invecchiamento e la morte. So as soon as I act, there's a beginning to the act, there's the continuation of the act, and there's the completion of the act. Così, appena io agisco, c'è un inizio dell'azione, una continuazione dell'azione e una fine dell'azione. Yeah. Now, it's not as though this wheel of this dependent origination is happening all the time. It's not. It's not that it's happening all the time. Ma sta avvenendo continuamente questa originazione dipendente. For instance, when we're asleep. Ad esempio, quando si dorme. Mm. And for instance, when we are being very, very mindful opening a door. O ad esempio, quando siamo molto, molto consapevoli aprendo una porta. So, at that point, the self is not so active. In quel momento, il sé non è così attivo. Mm. So, in a sense, when we are observing emotions coming up, you see, and we don't react, then the wheel is not completed. Allora, quando noi vediamo un'emozione che sta sorgendo e non reagiamo, questa ruota non si completa. Mm. Questo ciclo, diciamo, non si completa. Sì, yes, yes, you see. And in which case, that conditioning is dying out. E in questo senso, questo condizionamento va a esaurirsi, morire. Sì. So what the Buddha is trying to point to is the point of escape. E quindi quello che ci indica il Buddha è questa via di fuga. And the point of escape is between pleasant, unpleasant sensations, wanting, not wanting. In questo punto di fuga è tra le sensazioni piacevoli e spiacevoli e tra il volere e non volere. And that's why, you know, in all Vipassana systems, but you know, especially in the Mahasi way, we note intentions. E questo è il motivo per cui in tutti i sistemi di Vipassana, specialmente quello Mahasi, noi notiamo le intenzioni. And it's why in observing the process of wanting and not wanting, we're observing the characteristic of dukkha. E quindi osservando il volere e non volere, noi osserviamo la caratteristica di dukkha. How we create suffering for ourselves. Il modo in cui creiamo la sofferenza da noi stessi. Mm. And if we remember the story of the Buddha, this is what, you know, excited him when he sat under that tree. E se ricordiamo la storia del Buddha, questo è proprio il punto in cui excited him, lui si, diciamo, sollecitato a sedersi sotto l'albero della Bodhi. Sì. A focus for our meditation, both in the sitting posture and in daily life, is to be aware of this moment. Il punto focale della nostra meditazione, sia la seduta che nella vita quotidiana, especially in our daily life, specialmente nella vita quotidiana, è quella di metterei in luce questo punto, to see this point, di vedere questo punto. So here you are sitting and suddenly there comes in the mind caffè, biscotto. Noi siamo qui seduti e improvvisamente nella mente sorge caffè e biscotto. Now usually we're away, coffee. Di solito noi siamo portati via da questa cosa. Yeah. But now as wise meditators, the alarm bell goes ding ling ling ling ling ling ling. Ma ora come saggi meditatori abbiamo subito il campanello di allarme che si mette in moto. Sì. And then we have a moment of reflection. Abbiamo un momento di riflessione. So, should we do it or should we not? Dobbiamo farlo o no? And in this way we take control of our lives. In questo modo noi abbiamo il controllo della nostra vita. Our inner life. Della vita interiore. The inner life. And just by recognizing certain intentions as unwholesome and letting them pass, semplicemente riconoscendo alcune intenzioni come non salutari e lasciandole passare, and seeing an intention as wholesome and developing it, e vedendo un'intenzione come salutare e sviluppandola. This is how the Buddha described right effort in daily life. È così che il Buddha descrive il retto sforzo nella vita quotidiana. And just in this very simple way we can completely change ourselves. In questo modo semplice noi possiamo cambiare completamente noi stessi. Now again, although we say simple, it's not easy. Anche se noi diciamo semplice, però non è facile. And the reason it's not easy is because of the strength, the power of our past conditioning. E la ragione per cui non è facile sta nella potere, nella potenza del nostro condizionamento passato. Sì. And then this lovely last phrase, you see, because of this conditioning, because of dependent origination, there arises sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. L'ultima frase bella dice che a causa sorrow at the bottom there, last second line up, penultima death, sorrow conditioned by birth, sorrow quindi a causa della nascita, della vecchiaia, della morte, il dolore, l'imitazione, dolore fisico, tristezza e la disperazione. È la disperazione. Ma che roba. basically, this is what we have to come to know. And the more and more we come to know this, directly as experience, the more is our liberation. This is what we have to come to know. Questo è quello che noi dobbiamo arrivare a conoscere. Experience this. And it's the experience of it which is the process of liberation. E questa è l'esperienza di questo che consiste il processo di liberazione. This is not an abstract theory. Quindi questa non è una teoria astratta. Ah, sì. This is to be experienced. Quindi questa è una cosa che va esperita. Ah. I can only hope that by your commitment to this practice. Posso solo sperare che attraverso il vostro impegno in questa pratica. And that you will perceive deeply this dependence origination. Che voi riusciate a percepire in profondità questa originazione dipendente. And to offer you a warning. E che questo possa offrirvi un avvertimento. Mm. Ananda had been living with the Buddha for many years. Ananda aveva vissuto col Buddha per molti anni. And while walking with him one day, he said, "You know, Lord, I think I understand this dependent origination." E una volta camminando con lui dice, "Oh, sapete, Signore, io credo di averla capita questa originazione dipendente." Oh no, Ananda. Dependent origination is deep, subtle, profound. Lui dice, oh no, Ananda, perché l'originazione dipendente è una teoria molto profonda, molto sottile. And it is said that only a Buddha can understand it in its entirety and subtlety. Si dice che solo un Buddha la può comprendere nella sua interezza e nella sua sottigliezza. Yes. But luckily for us, we don't have to go that deep. Ma per nostra fortuna noi non dobbiamo andare così in profondità. Indeed, may you be liberated sooner rather than later. Che voi possiate essere liberati prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. Ah, grazie molto. So, I'm not speaking so long. Very good. So we'll keep to the schedule. Ok, quindi ci manteniamo.